Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Olasma e Faccio Sport. Nasce la campagna social che promuove l'attività fisica per una migliore gestione dell'asma. In linea Obiettivo Salute la professoressa Gianna Camiciottoli, specialista malattie dell'apparato respiratorio al Careggi di Firenze. Professoressa Camiciottoli, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Professoressa, la campagna nasce per promuovere e sostenere il ruolo dell'attività fisica per migliorare l'andamento clinico e la qualità di vita delle persone con asma, che spesso rinunciano a fare sport proprio perché pensano che la malattia costituisca un limite nel farlo. Ed è un pensiero che ormai va superato, perché noi sappiamo che un paziente asmatico che ha una corretta diagnosi e che esegue correttamente la sua terapia e che quindi ha un asma controllato può in realtà affrontare l'esercizio fisico e deve essere messo in condizioni di poter praticare lo sport che gli piace e che desidera praticare. Neppure nessuno dei farmaci che il paziente asmatico assume, siano essi inalatori o siano essi farmaci biologici, ha controindicazioni per l'attività sportiva. Deve essere semplicemente dichiarato e quindi il paziente asmatico va assolutamente trattato anche con quello che diventa un approccio terapeutico nuovo, il farmaco e l'attività fisica. Per questo invito tutti a condividere, ciascuno sui propri social, l'hashtag Olasma e Faccio Sport. Un corretto stile di vita in gravidanza e una diagnosi precoce consentono di diminuire sensibilmente l'incidenza e la mortalità delle cardiopatie congenite, che rappresentano il 40% delle malformazioni. E questo è il messaggio della Giornata Mondiale delle Cardiopatie Congenite, che ricorre domani, 14 febbraio. A Obiettivo Salute il commento del professor Fabio Mosca, presidente della Società Italiana di Neonatologia. In Italia ogni anno nasce circa un bambino ogni 100 nati che ha una cardiopatia congenita, sono circa 4.000 neonati, per fortuna in molti casi sono cardiopatie congenite non critiche. Per le nostre mamme, le nostre famiglie è importante sottolineare l'importanza della diagnosi prenatale e anche un po' l'atteggiamento e l'attenzione che durante la gravidanza bisogna avere, quindi assumere i folati prima di iniziare la gravidanza, fare dei controlli, in particolare nel primo trimestre si fa il test combinato e farsi seguire dai ginecologi, perché con l'ecografia è possibile una diagnosi precoce delle cardiopatie congenite in quasi tutti i casi e quindi è possibile poi essere seguiti in centri di secondo livello che gestiranno al meglio i neonati quando nascono. E per oggi è tutto, tra poco vi aspetto in diretta Facebook insieme a Giulia Calefato, parliamo di uno stile di vita sano, dall'alimentazione al fitness, non mancate. La programmazione di Radio 24 prosegue con Melog, vi aspetto, a tra poco.